fatta di fango, di pietra, di primitiva razza umana, vecchia sventro la mia fortuna, piccola donna dentro la storia, travolta dall'amore, storto, perfetto, perduto, perdente, micidiale, mi strappa un dente, questa nullità, questa nullità, questa nullità. Senza paura, senza paura, e adesso oh, oh. A volte senza paura, senza paura, e adesso oh.